versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta dagli studi di Milano e vi ringrazio per l'ascolto in diretta appunto in podcast in questa vigilia della Befana. Sono le 16:30 primi e 5 secondi e vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi, ospiti, critiche, osservazioni, richieste, qualunque cosa, tanto rispondiamo a tutti, o almeno ci sforziamo di farlo, ma io sono abbastanza diligente almeno in questo. Allora, puntata dedicata ai siciliani, se vogliono telefonarci 800 24 00 24, ma dedicata a tutti come sempre, perché è un aggiornamento uno dei tanti problemi della condizione politica in cui versa la regione Sicilia. Ci siamo occupati, ma ad attenti a noi due, lunedì mattina abbiamo ascoltato a lungo l'assessore all'economia di Regione Sicilia Baccei, perché abbiamo iniziato la settimana post Capodanno con lui ragionando sul fatto che l'Assemblea regionale siciliana era stata costretta all'esercizio provvisorio di bilancio, non era passata la legge di bilancio e malgrado 500 milioni, magari 900 milioni, perdonate, fatti scattare dal governo nazionale verso Regione Siciliana, che Regione Siciliana considera naturalmente un arretrato del governo rispetto agli impegni dello statuto speciale riconosciuti a Regione Sicilia, in realtà manca ancora mezzo miliardo per consentire di chiudere la partita del budget 2016, quindi esercizio provvisorio e nuovi problemi come sempre risolti sotto lo scudo dell'autonomia siciliana. Ci è capitato con l'assessore Baccei lunedì di chiedergli anche ragione della mancata ricapitalizzazione che l'Assemblea di Regione Sicilia ha negato a chi in Sicilia riscuote le tasse, e cioè Riscossione Sicilia, una società che al 99,9% è appunto di Regione Sicilia, per la parte restante, quindi solo lo 0,048% di Equitalia, e che continua ad avere perdite. Era uscito un articolo su Corriere della Sera di Sergio Rizzo nel quale si diceva nel solo 2014 Riscossione Sicilia aveva realizzato più di 20.000 euro di perdite per ciascuno dei 702 dipendenti, e quindi con perdite di 14 milioni e mezzo nel 2014, il doppio del 2013, chissà quanti nel 2015. Sto leggendo testualmente quello che Sergio Rizzo aveva scritto in un suo corsivo dedicato a questo tema, Riscossione Sicilia. Il titolo era: chi raccoglie le tasse può chiudere in rosso, il record negativo di Riscossione Sicilia, dove tra l'altro si documentava anche in termini di mancata efficienza, anzi di progressivo deterioramento dell'efficienza della Riscossione Sicilia, il fatto che di anno in anno vi era un calo verticale della capacità di incasso, perché la riscossione sui ruoli nel 2014 risultava scesa rispetto al 2013 del 16,7%, con crolli pazzeschi tipo quello del meno 31,7% a Palermo, e gli incassi sugli avvisi di pagamento risultavano precipitati nel 2014 addirittura dell'81,8%. E l'assessore Baccei ci spiegò che la mancata ricapitalizzazione non era un problema, insomma si sarebbe risolto il problema. Novità però che si aggiunge: abbiamo appreso da allora la singolare condizione nella quale si trovano i 90, si chiamano deputati in Sicilia, grazie ai deputati regionali, cioè i 90 consiglieri regionali all'Assemblea regionale siciliana, perché nel frattempo il presidente di Riscossione Sicilia ha reso noto dei dati sui quali secondo me vale la pena riflettere. mettere e ha anche reso noto una procedura nuova di trasparenza che a quanto pare nella regione siciliana verso i parlamentari regionali non veniva attuata. Quindi se loro non erano in regola con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alle tasse e se avevano quindi dei fascicoli aperti con Riscossione Sicilia, in realtà Riscossione Sicilia stava buona, non è che procedeva nella diversa gradualità temporale dell'esecutività dei provvedimenti di riscossione, come capita naturalmente a ciascuno di noi, povero cittadino senza tutela. Pare che in Sicilia prima non funzionasse così. Allora, abbiamo chiamato a questo punto il presidente di Riscossione Sicilia, perché dopo averlo citato senza che fosse presente con l'assessore regionale lunedì scorso, mi sembra giusto in realtà chiedere a lui le cose come stanno sulle pendenze fiscali dei parlamentari regionali siciliani e per spiegarle a voi tutti. Intanto buon pomeriggio e grazie di aver accettato questo invito, Fiume Freddo. Buon pomeriggio a lei e chi ci ascolta. Allora, i 90 parlamentari regionali, quanti di loro avevano problemi aperti di riscossione? Dunque, io mi sono insediato a Riscossione Sicilia 8 mesi fa e ho trovato una situazione che è quella che Rizzo ha descritto in qualche modo con dettaglio di numeri sul quotidiano, il Corriere della Sera. Ad un certo punto ci siamo accorti che in Sicilia, da questa prima analisi, un gruppetto ristretto di ricchissimi evadeva per miliardi di euro. Per miliardi di euro. E allora ho cominciato a farmi fare uno screening delle posizioni importanti in Sicilia, quindi cittadini che dichiarano più di 500.000 di euro, professionisti, funzionari, rappresentanti delle istituzioni che hanno una indennità, no? E che certo. Quindi diciamo è più facile aggredire. La sorpresa è stata quando nello scorso mese di luglio gli uffici mi hanno risposto dicendomi che ben 64 deputati regionali, consiglieri regionali su 90 avevano pendenze non onorate con il fisco. 64 su 90. 64 su 90, è il partito più importante. Insomma, il partito, anche perché a vedere la lista, perché ci sono i nomi, è un partito sì. Totalmente trasversale, cioè praticamente tutti i gruppi da destra a sinistra, senza nessuna eccezione. Sì. E i vizi sono come dire, no, 64 su 90 sì, è però un numero incredibile. Allora ho pensato di fare quello che credo si debba fare in questi casi, cioè ogni mattina gli ufficiali di riscossione in Sicilia come nel resto d'Italia si alzano, vanno in ufficio e pignorano il quinto dello stipendio a diverse decine di padri di famiglia, i quali non è che siano tutti evasori, magari hanno uno stipendio da 1.200 euro, hanno qualche difficoltà. E allora ho detto, ma perché mai noi invece non lo abbiamo mai, noi la società evidentemente, non è mai stato fatto nei confronti dei parlamentari. Ma alt, prima, seconda notizia, dopo i 64 su 90 apprendiamo che se sei deputato regionale in Sicilia si ferma l'iter dell'esecutività dell'esazione. Diciamo che queste procedure erano all'anno zero, cioè nessuno chiedeva al deputato, rispetto invece a quello che si fa con tutti i cittadini che si avvisano ovviamente di una pendenza erariale, nessuno chiedeva più niente. Quindi diventare deputato era come diventare re. Ma, mi scusi, lei quando si è reso conto di questo, immagino, come sì. Qualunque capo azienda, lei presidente, avrà chiesto, scusate, ma mi spiegate come mai questa cosa non procede secondo l'iter che riguarda qualunque cittadino? L'avrà chiesto, immagino. Che risposta ha ottenuto? Naturalmente ho convocato tutti i vertici tecnici dell'azienda. E tanto per essere chiari, non è che c'è un deputato che con proterbia va in azienda e dice adesso io non pago più, è peggio, cioè la risposta è stata non è mai stato fatto. Ma perché? Cioè, chi l'ha deciso? Perché? In base a cosa? Questo è un fatto, ovviamente è una vicenda gravissima che io ho titolato insomma come di soggezione d'ambiente, cioè evidentemente sì. C'è una cultura se così la possiamo chiamare, io direi che è un vizio di totale, di assoluta inciviltà, per cui alcuni soggetti importanti, si figuri la regione in Sicilia che è la madre insomma, di tante famiglie, allora nel momento in cui tu vai a toccare la regione, quindi i suoi rappresentanti, in un qualche modo hai leso la maestà. Ma io adesso nessuno... guardi, io non riesco a capire, e io spero che chi ci ascolta si renda conto di che cosa significa vivere in un paese in cui parti delle istituzioni come l'assemblea regionale della regione a statuto speciale Sicilia, che sempre si riempie la bocca dell'intoccabilità del suo statuto speciale. Sapete che io sono per l'abolizione di tutte le specialità, ma detto questo, vi rendete conto che forse se erano 64 su 90, cari ascoltatori, con pendenze fiscali, una percentuale che non uguali, perché se la applicassimo al totale della popolazione italiana, abbiamo 41 milioni di posizioni fiscali, vi rendete conto che sarebbero 30, più di 30 milioni quelli che hanno a questo punto le pendenze con il fisco. Ma se sono 64 su 90, evidentemente perché sapevano che queste pratiche poi si fermavano e non andavano all'esazione, o no? Beh certo, dico, è strano che nessuno viene lì e viene a dire io devo pagare, no? È singolare che ci sia questa sorta di parola d'ordine per cui nessuno divenuto deputato ha più provveduto a saldare le sue pendenze col fisco. Allora io ho fatto quello che, ripeto, avrebbe fatto chiunque, cioè ho detto bene, allora si proceda come nei confronti di tutti gli altri, cioè si avvisino se verranno a pagare, a rateizzare, la legge prevede a quel punto il blocco delle procedure, altrimenti si andrà avanti con i pignoramenti. Sono stato convocato in commissione bilancio all'Assemblea regionale, qualcuno mi ha fatto notare che non, insomma, loro sono, non si va a casa del padrone dopo averlo pignorato. Io ho spiegato che non è così, cioè che la legge è il padrone. Ma pare che in Sicilia questo principio per cui le cose, insomma, devono avere delle regole non valga. Ma allora... perché, mi perdoni, anche questa altra particolarità, cosa c'entra la convocazione con un organo istituzionale dell'Assemblea regionale, visto che le posizioni fiscali, le obbligazioni fiscali, gli eventuali posizioni, ritardi di pagamento sono individuali e personali? Cosa c'entra con l'istituzione? Il motivo era più ampio, nel senso che si voleva chiedermi che cosa stesse accadendo in riscossione Sicilia, come andava, perché per esempio nelle settimane precedenti avevo proceduto ad abolire l'albo degli avvocati. Lei consideri che riscossione Sicilia, che è Equitalia in Sicilia l'equivalente, certo, aveva un esercito di 887 avvocati incaricati. No, ma come è possibile 887? 887, lei sa molto meglio di me che la Casa Bianca, che è un'istituzione un po' più impegnata nel mondo, ha poco più di 200. Poi, cioè, riscossione Sicilia aveva più di 4 volte il totale di consulenti legali e avvocati cooperavano per il legale più di 4 volte della Casa Bianca. Esattamente. Allora io ovviamente ho abolito questi elenchi, siccome queste scelte in passato non è che sono state orfane, hanno padre e madre. Allora diciamo che questa azione di trasparenza, come l'era chiamata, non è piaciuta. Probabilmente qualcuno chiederà, anzi sono certo che chiederanno le mie dimissioni, perché intanto non hanno ricapitalizzato la società, che è un bel segnale che a questo punto forse qualche collegamento con questa novità che io lunedì non conoscevo, quindi mi batto il petto, io per questo l'ho chiamata. Sono sincero, per averlo detto ho ottenuto un primato, cioè il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che è uno dei parlamenti più antichi del mondo, sì, così si dice, sì, ha convocato un consiglio di presidenza il 31 di dicembre in una terra che ha qualche problemuccio, per dare incarico, perché per aver detto, che mi sembrava un gesto di pirateria politica e di irresponsabilità agire in questa maniera per vendetta, ha dato mandato perché mi si denunziasse per diffamazione e per attentato ad un corpo politico. Ah, cioè lei mi sta dicendo è meglio che non lo dici, perché sennò denunciano anche te. Io la ringrazio, però voglio dire, la cosa pazzesca è che a questo punto, dunque, i 64 a questo punto come hanno diversamente reagito al fatto di essere, guarda caso, per una volta trattati come qualunque cittadini? Vabbè. Perfetto. In tanti sono venuti saldando o rateizzando, che per la legge è la stessa cosa. Sì, certo. E sono rimasti al 30 ottobre una ventina di parlamentari, 24, che non avevano inteso rispondere in nessun modo. E per i quali a quel punto avete pignorato il quinto d'identità? A quel punto ho avviato la procedura di pignoramento e già sono state notificate 5 pignoramenti presso terzi, quindi la trattenuta del quinto. Immagino che queste notifiche, anche per quello che mi risulta, anche nelle ultime ore, hanno attivato, hanno reso solerti quanti avevano ritenuto di non dover rispondere nei giorni scorsi. Quindi allo Stato abbiamo avviato 24 procedure. Spero che alla fine non ne resti neppure una, cioè che tutti rateizzino e paghino. Allora, io adesso un secondo la interrompo perché abbiamo un minuto di informazione stradale, poi torniamo con lei su alcuni altri aspetti. Lei intanto ci ha raccontato questa vicenda, che è uno spaccato secondo me incredibile di che cosa ci sia dietro le pieghe di questa ufficialità così roboante. Ripeto, 64 deputati regionali su 90 erano pendenze fiscali e la regola non dichiarata ma praticata, la regola imperante era quella che nei loro confronti non si faceva nulla. Sognatevelo, cari ascoltatori, che lo Stato possa comportarsi così nei vostri confronti. Non sarebbe giusto, tollerabile, ma con loro si comportava così. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta e con noi il presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo. La storia abbiamo tentato di spiegarvela nei dettagli. Quando si insedia un po' di mesi fa al vertice di Riscossione Sicilia, società che ha problemi di efficienza ma accumulati nel tempo molto forti, Fiumefreddo scopre che 90, insomma, coloro che hanno pendenze in un'isola che ha fortissimi problemi, come avete sentito, anche di grandissimi contribuenti che non pagano le tasse o quantomeno di persone a cui si stima un imponibile molto elevato e che non sono in regola invece con il fisco, ma ci sono anche, tra l'altro, su 90 deputati regionali ben 64 che hanno pendenze, però nei loro confronti non scattava la macchina dell'esecutività. Decide a quel punto di procedere. E quindi di questi 64, per la prima volta e con grande sconcerto dell'Assemblea regionale siciliana, vengono trattati come cittadini comuni. Di fronte a questo, la maggior parte di loro si mette in regola o pagano o rateizzano, e per alcuni però si arriva al peggioramento di un quinto dell'indennità. Sacrilegio, sacrilegio. Avete anche appreso nel frattempo che, arrivando al vertice di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo scopre che per curare i servizi legali e il contenzioso di Riscossione Sicilia c'erano 887 avvocati in un albo ad hoc, cioè più di 4 volte quelli dell'intera Casa Bianca, che ha qualche, insomma, ruolo di maggiore responsabilità nel mondo. Questo per farci capire qual è lo spaccato di fronte a noi. Io a Fiumefreddo però devo fare una domanda. Avendo visto i diversi toni con cui i media siciliana trattano la vicenda, alcuni lancia in resta a suo favore, altri, per così dire, con raccogliendo umori della politica siciliana, che fanno scrivere altri colleghi di altre testate che dicono che lei ha esagerato con i numeri, si è messo alla ricerca di facile popolarità, per così dire, anche se non c'è scritto esplicitamente ma si capisce dai toni, fanno capire in altre parole che lei su questo ha alzato un fumo, un polverone pubblico, per nascondere l'inefficienza di cui deve rispondere lei di Riscossione Sicilia, cioè quella di cui aveva scritto Sergio Rizzo. Come stanno le cose? Beh, è facile difendersi lanciando un'accusa di questo tipo. Cioè, non è che perseguire i deputati significa non preoccuparsi delle inefficienze. Tra le inefficienze vi era anche questa, che esatto, era vergognosa. Quindi voglio dire, è ben diverso. Poi sulle inefficienze, ripeto, tenuto conto del fatto che questo consiglio di amministrazione si è insediato da 8 mesi, evidentemente c'è un fatto storico e che io voglio riassumere proprio in estrema, in pochi secondi. La riscossione in Sicilia, e non sono parole mie, sono parole di un sindacalista che così ha detto alla prima riunione che ho convocato dei sindacati, mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito e ritengo avesse ragione. Se in Sicilia ha funzionato un patto criminale, la riscossione ne ha fatto parte. Cosa vuol dire tradotto? Terribile. Tradotto, sì. Significa, terribile. Tradotto significa che in Sicilia, così che tutti sappiano, in Sicilia la media della riscossione, cioè noi riscuotiamo, pagano le tasse regolarmente soltanto l'8% della popolazione. L'8%. Vuol dire che su 100 persone in 8 pagano i servizi di tutti gli altri 92, loro compresi, quindi 100. Mio Dio. È impossibile. Questo è un vulnus alla democrazia, questo significa tante cose, evidentemente, no? Aggiungo che questa percentuale, che è già scandalosa, diventa inaccettabile per chiunque abbia amore per la propria, diciamo, società, e cioè per i cittadini che dichiarano in Sicilia più di 500.000 di euro di reddito, quindi dichiarano di vivere discretamente bene, lì la percentuale di riscossione è pari al 3,66%. In una società in cui c'erano quindi 887 avvocati, sedi periferiche 9, una per ogni provincia, dove, faccio un esempio, Catania, con una canone mensile di 45.000 euro al mese. Ugualmente a Palermo, a Ragusa 35.000 euro al mese, a Siracusa 30.000 euro al mese. Allora io ho disdettato questi affitti, ho cancellato gli avvocati, ho eliminato le consulenze. Allora, è chiaro che sono inefficienze storiche e sono inefficienze che diciamo hanno una loro ragione, a mio modo di vedere persino criminale, devo dire criminale. E però, se noi non miglioriamo la riscossione, quest'anno abbiamo migliorato più 23%, attenzione, quindi le cose vanno dette, più 23%. Perché abbiamo iniziato questa battaglia contro i grandi patrimoni? Lei pensi che abbiamo sequestrato 3.200 autovetture solo nell'ultimo semestre, tutte di cilindrata superiore a 3.000? Lei pensi che abbiamo sequestrato un aereo? E sa chi era intestato questo aereo? Un 12 posti, regolarmente parcato su una pista aeroportuale, quindi non una cosa che si può... Ad una signora che risulta gestire un bar in provincia di Catania. Allora, che la quale probabilmente poveretta non avrà mai neanche preso. No, beh, certo, è ovvio che un po' prestanome. Allora, qui la evasione in Sicilia la dobbiamo sempre leggere anche in controluce. No, certo. Con altre cose. Ha perfettamente ragione, allora, con altri fenomeni criminali. Ecco, se noi vogliamo gestire la riscossione come al tempo dei cugini Salvo, che evidentemente mantenevano un potere, ed erano mantenute da un potere, allora è giusto che se ne occupi qualcun altro, perché a me pare incredibile tutto ciò, a me come alla stragrande parte credo dei cittadini. Cioè, noi non possiamo avere istituzioni che chiedono ai cittadini di pagare le tasse e poi sono debitori per milioni di euro nei confronti di riscossione. Esattamente. È demagogico. Allora io devo a questo punto agli ascoltatori che chiedono, ma dici che c'hai i nomi, facci capire. Allora, tra i non censiti, cioè tra coloro che non avevano pendenze, ci sono tra i 90 parlamentari, per esempio Stefano Zito, Movimento 5 Stelle, non censito. Per esempio Giampiero Trezzino, Movimento 5 Stelle, non censito, e così via. Cioè ci sono anche dei 5 Stelle con dei debiti molto limitati, a dire la verità. Per esempio Siracusa Salvatore, debito inferiore ai 2.000 euro, piccolissimo, esatto, cioè, cose di questo genere. Ci sono tra i trasversali di ogni gruppo con forti esposizioni chi ha proceduto a reiterizzazione completa, ma lo stesso Rosario Crocetta, che ha proceduto a reiterizzazione completa, aveva 39.513 euro di esposizione. Carmelo Currenti, gruppo SD, 78.000 euro di esposizione. Assenza Giorgio Assenza, Forza Italia, 71.000 euro di reiterizzazione completa. Cioè, voglio dire, non è che fossero cifre sempre di 2.000 euro o qualche multa non pagata. Diciamo un altro qua, il gruppo Musumeci, Ioppolo Gino, 27.440 euro, quindi cifre che per un reddito medio degli italiani sono anche considerevoli. Giacinto Di Giovanni, Megafono PSE, il suo gruppo, 55.927 euro. Tra quelli pignorati, che hanno avuto il pignoramento attivato, Alice Anselmo del PD, leggo, oppure Cani Gaetano dell'UDC, pignoramento attivato. Giorgio Ciaccio, Movimento 5 Stelle, in questo caso 4.464 euro. Ma vi posso garantire che lì sta alla mano quello che colpisce è la totale trasversalità, tranne il fatto che 5 Stelle sono quelli che hanno poi i più non censiti. C'è anche qualche PD che non ha cariche esattoriali, come Maria Cirone, come Antonello Cracolici, però per onestà vi devo dire che è una lista che fa capire che il fenomeno è parte di questo mondo, che secondo me Antonio Fumereddo, io gli faccio i miei auguri perché non so quale sia la sua percentuale di sopravvivenza istituzionale dopo questo gesto, però è con questa trasparenza che si rendono consapevoli i cittadini, ma si fa un passo avanti, perché poi è solo accendendo la luce dove la luce non c'è che si rende impossibile la protrazione di queste prassi. Le ripeto, più che per il totale delle cifre dei 64 e i problemi istituzionali, se l'istituzione ai livelli più elevati gode dell'impunità, come diavolo volete che poi pratichi davvero la legalità per tutti? Questa è la mia domanda. Non è un processo alle intenzioni, è l'ABC di che cosa si deve chiedere, soprattutto in regioni dove ci sono poi reti criminali. L'espressione di quella percentuale del 3,8% dei pagamenti nei grandi contribuenti, che cosa diavolo ci può rappresentare se non il fatto di un'illegalità contro la quale lo Stato è condannato a non vincere? Come diavolo si può fare impresa con rispetto delle regole e concorrenza, creare posti di lavoro in una condizione di questo tipo? Secondo me ci vorrebbero molti Antoni Fiume Freddo. Io non lo conosco, quindi non gli sto suonando il violino. Sono colpito da una vicenda che ai miei stessi occhi, che credo di essere un cinico disincantato osservatore, mi fa rimanere muto, senza respiro, per così dire. Giuseppe da Messina, come la pensa? Allora, buonasera a tutti. Sì. Intanto, signor Giannino, io ti faccio i miei complimenti, la seguo sempre, e sono d'accordo con lei su tantissime cose che sempre dice. Ma lei la sapeva, la sospettava una cosa di così, la immaginava? Allora, io intanto premetto, sono orgogliosamente, carnalmente orgoglioso di essere siciliano. Certo, si figura. Purtroppo ogni volta andiamo a scoprire noi cittadini magagne, la politica che ci usa, ci abusa, fanno i loro accordi, il clientelismo, e non se ne esce mai. Ci sono molte ora quest'altra per gli avvocati, 387, capisci, una cifra, per immagina lei quante ce n'è. E poi arriviamo al punto che abbiamo una città in ginocchio per la cosa più banale del mondo, cioè l'acqua. L'acqua. Certo. E per 15 giorni nessuno fa niente, non si mobilizza nessuno, c'è blocco. La regione Sicilia è qua e là. Noi abbiamo uno statuto autonomo. Esiste o non esiste? E legge costituzionale, prima della Repubblica Italiana, uno statuto autonomo combattuto, che è costato anche parecchio, è stato conquistato col sangue, come no, però che secondo me viene disonorato dalla politica da molto tempo. Questa è la mia personale opinione, non gliela voglio attribuire, Giuseppe. Io penso che la condizione di cui ci stiamo occupando oggi dà l'idea, è uno spaccato, però io questa veramente non me la sarei mai aspettata, cioè apprendere che se eri deputato il fisco si fermava per una legge non scritta, cioè, la legge non scritta dell'impunità è la negazione della democrazia. Però questo la penso io. Biagio, la provincia di Catania, deve essere rapido, Biagio. Una buona serata. Buonasera. Grazie per l'intento di avermi richiamato. Si figura. Io sono uno dei 22.000 precari della pubblica amministrazione della Sicilia. Allegria. Da 20... E come si sente ad apprendere che i deputati regionali, se avevano pendenze col fisco, non erano chiamati a pagare? Se le dico che mi sento preso per il culo... Credo che lei abbia una qualche ragione per usare anche il termine. Perché noi a 27 anni che ci prendono per il culo. Lo so, e venite naturalmente utilizzati anche nelle altre regioni per dire che è tutto clientelismo, però vedete che qui una mano tiene l'altra in questi disastri. Allora, io ringrazio ancora e auguro una buona Befana, e soprattutto mi auguro di vederlo in carica ancora a lungo a Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo. Ringrazio chi ci ha ascoltato, mi scuso con gli altri ascoltatori che erano in linea, ma il tempo è finito. Buona Befana, ma noi anche domani mattina alle 8:15 con Attente Noi Due siamo in diretta. Continuate con la 24.